Esercizio 3. Ascolta le frasi facendo attenzione alla pronuncia delle consonanti semplici e geminate. 1. Il roseto è un giardino di rose. Il rossetto è un cosmetico per labbra. 2. Un abate è il superiore di un monastero. Paolo abbatte un albero. 3. Giovanna è una mia carissima amica. In caso di necessità, ammicca a Carlo. 4. La sua è stata una conferenza alata. Sandra allatta il bambino. 5. Le comete sono stelle con una coda luminosa. È incorreggibile, commette sempre gli stessi errori. 6. È piccola, va ancora all'asilo. Ha l'assillo delle malattie, è ipocondriaco.